Un saluto a tutti. Stasera sono qui con Pippo Iannacci della Casa della Memoria di Brescia, archivista e bibliotecario. Come? Non si sente? Pronto? Sì. Rifaccio. Questa sera siamo qui riuniti, diciamo, per parlare della strage di Piazza della Loggia avvenuta a Brescia il 28 maggio 1974. Questo sarebbe il 51esimo anniversario. Sono qui con Pippo Iannacci della Casa della Memoria, archivista e bibliotecario, e con Fiorenzo Angoscini, autore del libro Vuoti di memoria, uscito adesso quest'anno, qualche mese fa. Volevamo, per quelli che non c'erano, diciamo, chiedere a Pippo, a Fiorenzo, di parlare un attimino delle stragi che erano avvenute in quegli anni, cominciando da Piazza Fontana, per avere un quadro così generale almeno di quel periodo. Io vorrei solo sottolineare che a livello giudiziario la strage di Piazza della Loggia, l'iter giudiziario non si è ancora concluso dopo 51 anni. Delle altre stragi rimane a livello giudiziario solo in sospeso la sentenza di Cassazione della strage di Bologna. Ecco. Adesso chiedo, diciamo, a Fiorenzo se ci può parlare un attimino velocemente, diciamo, dalla prima strage, diciamo la strage che ha iniziato questa fase del terrore, direi, di Piazza Fontana, e poi di quelle successivi. Buonasera, grazie a tutti. Parlare brevemente e velocemente delle stragi sarebbe davvero una cosa eccezionale riuscire a farla, anche perché Renato ha parlato della prima strage, quella di Piazza Fontana, ma io ritengo che la prima strage di Stato sia stata consumata il primo maggio del 47 a Portella della Ginestra. E quella è stata la prima strage di Stato. Oltretutto, ormai è consolidato, era coinvolta l'OSS, quella che è poi diventata la CIA. Comunque, questo era una premessa che ritenevo indispensabile. La strage di Piazza Fontana è ormai anche conosciuta come la madre di tutte le stragi, proprio perché è stata quella che negli anni più recenti, anche se ormai ne sono passati 56 o 55, ha dato il via a tutta una serie di situazioni molto particolari, che si sono concretizzate dopo però un periodo preparatorio, e questo io ritengo sia inevitabile. Dovrò dilungarmi un po', ma è necessario, anche perché Renato, ma anche, scusate, i compagni del COX 18 della Calusca mi hanno chiesto di delineare o di anticipare alcune cose di un lavoro che sto cercando di portare a termine e di concretizzare, ed è quello sui convegni anticomunisti che si sono svolti in Italia dal 60 fino al più famoso, più noto, il più citato, e quello che è assurto agli onori della cronaca, che spesso viene ricordato semplicemente come il convegno dell'Hotel Parco dei Principi organizzato dall'Istituto Poglio. Il tema era la guerra rivoluzionaria, ma anche qui io voglio sempre fare una precisazione: il sottotitolo era, siamo nel maggio del 65, la terza guerra mondiale è già cominciata, e questo inquadra bene quello che era l'intenzione dei fascisti, che per me i fascisti non sono solo coloro che vanno con o che andavano con la camicia nera, con i manganelli, anche recentemente, parlo degli anni 70, anche adesso quando vanno a fare il presente per Ramelli, Pedenovi ed altri, ma sono un insieme e questi sono gli esecutori di un disegno. Io sono un vetero comunista e quindi non posso non ricordare cosa si diceva, che i fascisti sono i cani da guardia del grande capitale. E quindi, dal mio punto di vista, vanno sempre inquadrati e considerati tali. Nel 1957 in Italia, inteso come territorio geografico, non come amministrazione politica, c'è stato un golpe. Un golpe che è andato a buon fine ed è una cosa che quando io ho incominciato, ho cercato di approfondire questa notizia, mi meravigliava e colpiva una cosa, di come nessuno ne parli, ma non solo certi organi di stampa che ne parlerebbero a loro modo, ma anche chi come noi dovrebbe interessarsi ed approfondire questo tema. Nella Serenissima Repubblica di San Marino, nel settembre del 57, c'è stato un colpo di Stato, spinto, voluto, sostenuto, organizzato dalla Democrazia Cristiana Italiana, ma attuato dalla Democrazia Cristiana di San Marino. Tenete presente che c'erano i carri armati ai confini ipotetici, perché sapete che fra l'Italia e San Marino, credo che tutti ci siate stati almeno una volta, c'erano i carri armati italiani che volevano impedire ai comunisti emiliani, romagnoli, umbri e marchigiani di portare aiuto e sostegno ai comunisti e ai socialisti di San Marino. E dico questo perché poi non mi addentro questa sera, ma farò dei cenni nel libro o nella pubblicazione, ammesso che troverà poi uno sbocco finale del genere, entro un po' più nel merito di questa questione relativamente ai cosiddetti fatti di Rovereta, che era la località in cui si sono riuniti i golpisti, detto anche quelli del capannone, perché era un capannone industriale in via di costruzione. Perché questo golpe, perché la Repubblica di San Marino dal 1945 continuava durante democratiche elezioni a dare l'appoggio, il sostegno, la maggioranza a socialisti e comunisti sammarinesi. Avevano intessuto anche delle forti relazioni economiche con l'Unione Sovietica, quindi prima si è cercato tramite il boicottaggio economico, impedendo agli, tra virgolette, passatemi il termine, italiani di andare a giocare nel casinò di San Marino, che era la loro più grande fonte di ricchezza. Quando non si è potuto più o non si è riusciti a portare a termine questo disegno, il segretario della Democrazia Cristiana Sammarinese è stato chiamato letteralmente negli Stati Uniti e gli sono state imposte le direttive che poi, una volta venuto qui, è riuscito ad applicare e portare a termine. Anche qui un altro inciso, una parentesi, ciò è stato possibile perché due socialisti che facevano parte del governo di San Marino hanno accettato di essere comprati dai democristiani, hanno fatto cadere il legittimo governo e così si è andato avanti. I leader del Partito Comunista Sammarinese soprattutto non è stato arrestato, ma è stato obbligato all'esilio, non come quello di Hammamet, all'esilio nel senso che proprio non gli è stato più permesso di entrare nella Repubblica del Titano ed è stato costretto a vivere all'estero, anche se magari per lui l'estero era semplicemente l'Italia, però non era la sua città, la sua nazione, il suo luogo comune. Un'altra cosa molto importante è del giugno 60, la cosiddetta operazione Ippocampo. Anche questa è una cosa che fino a una ventina, trentina di anni fa si riusciva a trovare qualche traccia. Ultimamente invece nessuno più parla di questo, che era un tentativo di colpo di Stato, sostanzialmente il Tambroni, Fernando, allora Presidente del Consiglio, voleva far rapire il Presidente della Repubblica Gronchi. A denunciare questo non è stato un rivoluzionario, un comunista, o definiamolo come vogliamo, bensì un giornalista democristiano, Vittorio Gorresio, che sulla stampa del 20 giugno 60 denuncia appunto questa operazione Ippocampo. Per la verità anche Renzo Vanni ne parla nel suo libro. Renzo Vanni era un toscano ex militante del Partito Comunista, diventato poi una delle figure più carismatiche dell'anarchismo toscano. E qui si inseriscono quelli che sono i convegni anticomunisti, perché si parla spesso, forse solo, no, di quello che anche come risonanza è stato trattato, citato ed è arrivato per primo probabilmente alle nostre orecchie, che è quello sulla guerra rivoluzionaria, come dicevo prima, dell'Hotel del Parco dei Principi, anche perché quello è stato uno spartiacque. Lì era esplicita la presenza della manovalanza fascista ed era un po' più coperta, occulta, quella dei militari, cosa che poi in un altro convegno, di cui parleremo dopo, è avvenuta. Ma nel 1960, presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, più noto come Angelicum, il Centro Studi Luigi Sturzo, nel maggio del 60, organizza un convegno che si intitola La liberazione dal socialcomunismo. Siamo nel 60, nel maggio, nel giugno c'è stato questo tentativo, questa operazione Ippocampo, e quindi vedete come le cose, tra l'altro già in questo primo convegno, più subdolo secondo me, più pericoloso ancora rispetto a quello del polio, anche se quello è stato lo spartiacque, l'ho già detto. Perché qui appunto si teorizzava che bisognava agire, presenti c'erano anche Scalfaro, relatore, e da Gedda, che è stato l'organizzatore, è stato anche Gedda dei comitati civici, e appunto tutta una serie di relatori hanno richiamato, ricordato la necessità di opporsi al socialcomunismo. Nel 61 poi esplicitamente, organizzati da Suzanne Labine, da Ivan Matteo Lombardo, da Randolfo Pacciardi, che quando c'è da inventarsi qualcosa di anticomunista, Randolfo Pacciardi, penso lo conosciate, sappiate chi era, è stato comandante delle Brigate Garibaldi in Spagna, poi repubblicano, poi fondatore di Nuova Repubblica, e sostanzialmente è diventato, usiamo un eufemismo, un gollista italiano. E in questo convegno, che è del 61, novembre 61, sempre a Roma, ed è il secondo di una serie di conferenze internazionali sulla guerra politica dei Soviet, e che si intitola questo secondo congresso, La minaccia comunista sul mondo, ed è il secondo perché il primo nel 59 si è tenuto a Parigi nei locali del Centro Studi della NATO. Suzanne Labin, se non, per chi non la conoscesse, è una sedicente socialista che ha partecipato, la sua biografia dice questo, alla resistenza in Francia. Adesso vi do un aggiornamento che farà a me ha fatto sorridere, ma nel 42 se ne va dalla Francia, quindi quale resistenza abbia potuto fare è un po' strano. Se ne va in Francia, dalla Francia va in America Latina, in Argentina, e poi nel 52 torna e sostanzialmente diventa la portavoce di quelli che sono gli interessi della NATO in Europa e in Italia. Il terzo convegno, prima del polio, si svolge a Milano, a Casa Letizia, ed è organizzato da un centro studi Russia cristiana di un certo Romano Scalfi. Poi negli anni successivi diverrà un esponente di Comunione e Liberazione. Il titolo di questo convegno, che ormai erano fissati, il comunismo in Italia, cause e rimedi. Io di questi convegni sono riuscito, tranne quello della Labin, a recuperare tutti gli atti integrali. Quello della Labin non ho trovato stampato, almeno, o io non sono stato capace di trovarlo, gli atti del convegno, però ho trovato un suo libro che si intitola Mancano 5 minuti. Poi dopo ricorrerà più o meno un'affermazione del genere, ed è un'edizione di Corrispondenza Socialista come edizione, e sostanzialmente da quello che ho potuto leggere e verificare è quanto poi si sostiene e si cerca di attuare tramite quel convegno di cui vi ho parlato. Nel 65, ricordiamo che però tra il 63 e il 65 qualcuno ha sentito un tintinnar di sciabole, l'affermazione di Nenni relativamente al piano solo e al tentativo di colpo di Stato di De Lorenzo e Segni, che è del 64, anche se poi l'Espresso lo denuncia nel 67 e diventa di pubblico dominio in quegli anni. Una cosa che a me è sempre colpito, allora ero molto giovane, quando ho visto una pubblicazione che credo si possa far risalire a quella che poi diverrà la redazione di Controinformazione o parte di essa, che era una rivista sostanzialmente che ho trovato casualmente in edicola, dove si fa una ricostruzione puntuale di quella che è stata la strage appunto di Piazza Fontana, e si riportano due immagini, due copertine di Epoca, il settimanale che faceva capo alla Mondadori. Una del 64, una del 69, dopo la strage di Piazza Fontana, e tutte e due sono tricolori, e tutte e due più o meno richiamano, sono pubblicate nel libro Vuoti di Memoria, e tutti e due richiamano la necessità dello Stato forte. Nel 65 c'è questo convegno dell'Istituto Polio, anche qui ci sono delle, chiamiamole curiosità, ma non sono sciocchezze, sono cose di sostanza, che cerco di approfondire, perché sull'Istituto Polio e sul convegno all'Hotel Parco dei Principi si sono dette tante cose, e per quel poco che siamo riusciti a approfondire e capire sono leggermente diverse da quelle che si è sempre sostenuto, non totalmente ma in alcune parti. Dopo però il convegno del Polio, nei cui atti ufficiali pubblicati dall'editore Volpe nel giugno del 65 si annunciava un'imminente a breve scadenza, non si indicavano i tempi di un secondo convegno, l'Istituto Polio scompare, sparisce, non esiste più, il secondo convegno non si svolge, però molti di quelli che erano stati i sostenitori, gli organizzatori, i promotori dell'Istituto Polio costituiscono un altro istituto di storia militare che si chiama Nicola Marcelli, Nicola proprio con due C, non Nicola e nemmeno Nicolò. E questo si intitola Guerra non ortodossa e difesa. Si svolge a Roma nel giugno del 71. E anche qui ci sono tutta una serie di personaggi, ancora Ivan Matteo Lombardo. Io prima non ve l'ho detto perché non voglio dilungarmi troppo, mi rendo conto che lo sto già facendo fin troppo lunga. Ivan Matteo Lombardo, ex socialdemocratico, partecipante al convegno dell'Istituto Polio, come abbiamo già visto, partecipante anche organizzatore insieme alla Labin. Pensate che io ho trovato, senza avere però ancora la certezza matematica, alcuni che indicano Ivan Matteo Lombardo come il cassiere per l'Europa dei fondi neri della NATO. È una notizia che va sicuramente approfondita e verificata, altrimenti rischiamo di dare solo, tra virgolette, dei numeri. Questo convegno è del 71, ma nel 70, ed è una cosa che io sono venuto a conoscenza davvero in maniera molto casuale, un compagno un giorno mi dice: io ho una rivista, si chiama Aviazione Marina, il titolo esatto e completo è Aviazione Marina Intercon Air, perché a lui piaceva disegnare, piacevano gli aeroplani, e qui c'è, vedete, la copertina con degli aerei militari. In questa rivista, che è del settembre 70, c'è un inserto che si chiama Le ultime 100 ore di libertà in Italia. Le ultime 100 ore di libertà in Italia, e qui si ipotizzano una serie di avvenimenti, però del 71, quindi l'anno successivo, sarebbero o avrebbero dovuto o avrebbero potuto avvenire in tutta una serie di città italiane. E il 21 giugno del 71 fanno una sorta di resoconto, e in particolare a Bologna, nella città di Bologna, poi c'è anche Firenze, Roma, Milano, Genova e via dicendo, scrivono questo. È giovedì 24 giugno 1971, come ha detto, la città è Bologna. Ore 10:30. Grande manifestazione unitaria nelle principali vie cittadine del capoluogo, che con tutta la regione Emilia-Romagna ha proclamato lo sciopero generale. Racconta tutta una serie di avvenimenti. L'ora sono le 10:30. La bomba a Brescia è scoppiata alle ore 10:12. Ma io quando l'ho letto davvero ho avuto i brividi, ho provato i brividi, perché sostanzialmente raccontano quello che poi, naturalmente non per filo e per segno, perché addirittura sarebbe una cosa allucinante, ciò che è avvenuto a Brescia il 28 maggio del 74, mettendoci dentro anche alcuni aspetti bolognesi, la mancanza di mezzi di trasporto per trasferire i morti e i feriti, quindi l'utilizzo di taxi, di pullman, eccetera, eccetera. Naturalmente non può mancare il fantasma di Tito, aleggia su questa cosa la possibile invasione da parte del Jugoslavia dell'Italia, e l'unità, un mese dopo, siamo al 25 ottobre del 70, dedica due articoli in una pagina, con della pubblicità in parte, comunque quasi una pagina intera, per dire, e con questo occhiello, provocatorio libello apparso su una rivista di esperti militari, invasione sovietica con l'aiuto Vaticano, la ricostruzione delle ultime 100 ore di libertà in Italia in una pubblicazione diffusa fra le nostre forze armate. Il lunghissimo e ridicolo testo è presentato come molto meno fantascientifico di quanto si possa ritenere. In effetti anche a me, per quanto riguarda almeno la parte di Bologna, è sembrato poco fantascientifico, o non solo fantascientifico. Preoccupanti analogie con un discorso del ministro della difesa Tanassi e con un discorso dell'ammiraglio Birindelli. L'esaltazione del PSU, Partito Socialista Unitario, Partito Socialdemocratico, eccetera, eccetera. L'altro articolo sotto questo: dietro ci sono probabilmente le pressioni degli USA e della NATO. Però, come vi stavo cercando di illustrare, questo, le ultime 100 ore di libertà in Italia, almeno a mio ricordo e per quanto possa io aver cercato ulteriori fonti e informazioni, tranne questo articolo dell'Unità non ho trovato. Forse ve l'ho fatto un po' lunga, ma era per cercare di dire come tutto quanto è avvenuto almeno dal 60 o addirittura dal 57 con il colpo di Stato nella Repubblica di San Marino sia stato organizzato e pianificato minuziosamente. Io non voglio portare via, perché immagino, conoscendolo, che Pippo vi parlerà poi di un interrogatorio di un militare della Guardia di Finanza relativamente all'abbattimento di Argo 16, ma non parlerà di Argo 16, l'aereo abbattuto dallo Stato, dall'esercito sionista di occupazione, ma parlerà di altro, e quindi lascio a lui poi dopo approfondire questo argomento. Da Piazza Fontana, voi lo sapete, si è poi proseguiti con tutta una serie di avvenimenti e di, chiamiamole, stragi genericamente. Io nel libro ne parlo e inserisco anche quella della Questura di Milano del maggio 73. Io pongo alla vostra attenzione solo un aspetto sulla controversa figura di Gianfranco Bertoli. L'editoriale del numero zero di Controinformazione, ottobre 1973, definisce, e qui c'è la disponibilità di Controinformazione facilmente verificabile, definisce Bertoli il finto anarchico Bertoli. Non voglio né polemizzare né andare a approfondire oltre, anche se recentemente l'Ateneo Libertario e l'Archivio Pinelli, riproponendo un'intervista ad Aurora Failla, la moglie di Paolo Finzi, perché era appena deceduta, e a sua figlia, quando vengono interpellate e richieste appunto di Bertoli, sostanzialmente, poi ve lo potete leggere perché è reperibile, oppure vi fornisco il link, dicono che probabilmente con Bertoli abbiamo sostanzialmente sbagliato tutto. Si arriva poi alla strage di Brescia, e qui le cose da dire sarebbero talmente tante che ho persino ritegno a continuare a tediarvi. Renato prima diceva solo questo, poi la smetto, che tenete presente che prima dell'istruttoria conclusa in primo grado il 3 aprile del 2025 contro Marco Tofaloni, minorenne all'epoca dei fatti riconosciuto responsabile o uno dei responsabili che ha depositato la bomba, e quella in corso nei confronti di Roberto Zorzi, che è ancora in corte d'assise, scusate, a Brescia, e che probabilmente terminerà all'inizio del prossimo anno. Le istruttorie per la strage di Brescia sono state 5 prima di queste. Quindi, se vogliamo fare un conto semplicemente aritmetico, 7 istruttorie, e ci sono voluti 51 anni per individuare o rinviare a giudizio 2 tra i possibili esecutori materiali. Però c'è un grosso neo, o come possiamo o vorremmo definirlo, all'interno di tutto questo, e si chiama Ermanno Buzzi. Ermanno Buzzi è il principale protagonista della prima istruttoria, quella dei giudici Vino e del pubblico ministero Trovato. Ha causato fortissime frizioni e spaccature all'interno del collegio di difesa delle parenti delle vittime, fra chi sosteneva, e i capi cordata erano due avvocati, tutti e due del PC, uno Francesco Loda e uno Pippo Apicella, e anche qui credo che poi Pippo approfondirà un aspetto non secondario di questa vicenda. Loda ed altri legali sostenevano che Buzzi fosse un fascista, avesse avuto una parte nell'organizzazione della strage, mentre altri sostenevano che fosse semplicemente solo un piccolo ladruncolo, un piccolo delinquente dedito al furto delle opere d'arte. Vi dico solo questo, poi la smetto e passo la parola. Buzzi nel 56, era del 39, quindi aveva 17 anni, scriveva su un giornalino bresciano che si intitolava Avanguardia Nazionale, che non è Avanguardia Nazionale di Stefano Delle Chiaie, perché quella viene fondata il 25 aprile del 60. Era un bollettino interno della corrente almirantiana della Federazione di Brescia del Movimento Sociale Italiano. Scriveva firmandosi Ermirman Buzzi, quindi germanizzando il suo nome. Su questa rivista scrivevano almirante Pino Rauti, Pino Romualdi, Marcello Mainardi, che poi diventerà il direttore e animatore del circolo culturale Riscossa, era l'omonimo bresciano della Fenice di Milano. Quindi Buzzi non era uno scartino, era uno, come poi sentenzierà anche la Corte d'Appello di Venezia, confermata dalla Cassazione, corresponsabile della strage. Io sono solito anche ribadire, quando ci sono questi incontri, che per me vale quanto sosteneva anche Aldo Agnasi, ex sindaco di Milano, in un convegno organizzato da Democrazia Proletaria nell'85, sostanzialmente in seguito agli arresti di militanti di Avanguardia Operaia per la questione Ramelli. In quell'occasione, in quel convegno, Agnasi sostenne che la storia non si scrive nei tribunali. E con questo, per il momento, almeno finisco e passo la parola o a Renato o a Pippo. Sì. Dunque, dopo questa introduzione, così, che dà un contesto molto ampio, molto ricco, forse troppo ricco, eccetera, spero che non... Ritorniamo a bomba, diciamo, ritorniamo alla strage di Piazza della Loggia. E io volevo chiediamo a Pippo, la magistratura ha individuato quattro esecutori organizzatori, giusto? Cinque. Allora, dopo mi dici tu. Qui nel libro vengono appunto, si parla di tre persone, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte e Ermanno Buzzi, che appena Fiorenzo ci ha appena parlato. Scusate, si parla di tre perché è stato scritto prima che venisse condannato Toffaloni in aprile di quest'anno. Il libro è uscito in gennaio del 2025. Questi sono stati, cioè loro, il loro iter giudiziale è finito. È finito l'iter di questi tre, di Carlo Maria Maggi, Tramonte, diciamo, è terminato. Ecco, dopo ti volevo chiedere un attimino, se ci non di Ermanno Buzzi, che ci ha già parlato, ma degli altri due, e di questo Toffaloni che si aggiunge, che è stato all'epoca dei fatti minorenne, che però ha partecipato all'organizzazione della strage. E poi il quinto sarebbe... Beh, quello che è attualmente sotto processo dibattimentale, quindi Roberto Zorzi. Roberto Zorzi, ecco. Microfono. Soggetto già Pippo non ha il microfono. Tempo. Scusa, deve parlare qui. Sì, qui si deve parlare. Sì, allora. Fiorenzo ha fatto un inquadramento di come in qualche maniera venivano preparate ideologicamente le truppe anticomuniste, chiamiamole di base, quelle che dovevano gestire poi il sistema anticomunista in Italia, che era supportato dagli Stati Uniti ovviamente e dalla NATO, perché appartenendo all'area occidentale questo era il livello di preparazione. Per Brescia stiamo parlando di una strage, la prima strage è stata quella di Portella della Ginestra. Le stragi sono un punto apicale, sono la punta emergente di situazioni di tensione e di frattura dove gli Stati Uniti individuano come strumento di intervento e di comunicazione la strage, perché le stragi, ovvero il terrorismo in genere, ma le stragi in particolare, sono dei veicoli di comunicazione. E questo in qualche maniera spiega perché poi, quando sono stati destrutturati gli apparati militari clandestini eversivi, nella parte militare ovviamente, si arriva alle stragi 93-94 e dopo non ci sono stragi, perché il livello di comunicazione ormai è gestito, entra in campo Berlusconi, televisioni commerciali, e tutto il sistema di comunicazione viene gestito senza necessariamente ricorrere ad elementi di violenza come erano stati fatti precedentemente. È un inquadramento che va fatto, perché diversamente non si capisce né perché ci siano persone così disparate in qualche maniera diverse fra di loro coinvolte nelle vicende delle stragi, e ormai possiamo anche dire che il sistema di depistaggio e di intervento dello Stato, ovvero degli apparati dello Stato coinvolti in queste vicende di continua copertura, non è semplicemente la copertura di un reato o di aver commesso un reato. E se poi si sentono questi soggetti coinvolti in queste attività, loro ritengono di aver compiuto, tra virgolette, il loro dovere o comunque qualche cosa che stava all'interno di nessuno innocente, Freda confessa nei suoi libri, nelle sue pubblicazioni, nelle sue biografie, e quindi gli effetti collaterali sono assolutamente normali, anzi, nello specifico, è proprio il significato di Fiorenzo. Ho fatto riferimento a come veniva descritta la strage di Bologna nel 1970, che era in realtà la descrizione della strage di Brescia. La strage di Brescia risponde alla stessa pianificazione, perché è una pianificazione rintracciata nelle carte e nei documenti della CIA, dopo il sequestro di Dan Mitrione e il film L'Americano di Costa Gavras, emergono su richiesta di un senatore americano i documenti della CIA di addestramento allos Fresnos in Texas, in un ex aeroporto civile, l'addestramento. E se vi ricordate, o comunque andate pure a rivederlo, nel film L'Americano, Costa Gavras fa vedere esattamente quello. Allora il film è del 72, girato 72-73, esce nelle sale 73-74, esattamente la descrizione che c'è in quella rivista di una pianificazione di un attentato, e viene descritto così nel film: attentato a manifestazione, la folla reagisce, la polizia interviene. È lo schema di Bologna, è lo schema di Brescia, è un marchio preciso. Quindi, per quanto riguarda il marchio, le matrici e la comunicazione chiara, dove c'è crescita sociale democratica e dove questa non è più contenibile con, tra virgolette, le normali attività anticomuniste, procede agli eventi di strage. Le stragi nello specifico, sto parlando perché ogni strage ha una sua storia, ha un suo significato. Brescia arriva per ultima, tra virgolette, non è proprio così, perché Bologna ha chiuso anche su Bellini in appello e si sta aspettando la Cassazione, ma Brescia arriva per ultima e fa un po' da scopa rispetto a tante altre cose, compresa quella di Piazza Fontana, perché l'elemento, non posso definirlo risolutore, ma che inchioda le sue responsabilità Freda e Ventura, viene rintracciato proprio durante le indagini di Brescia, e l'ispettore Michele Cacioppo della Direzione Centrale di Polizia, di Prevenzione di Polizia, che era ufficiale di pubblica di UPG per Brescia, rintraccia gli atti amministrativi di pagamento da parte di Ventura di quel capanno in Casolare di Paese a 10 km di Treviso, dove era stato conservato il materiale esplosivo e anche armi, e in particolare i candelotti del Vitez Z30 utilizzati per la strage di Piazza Fontana e per la strage di Brescia. Quindi la connessione e il percorso si è cominciato a delineare in maniera chiara. Bologna è andata più avanti, perché l'evento di Bologna, che sembra estrapolato dalle vicende del cosiddetto terrorismo nero e stragista, ha rintracciato i canali finanziari che portavano a Gelli e a quel nucleo di, chiamiamola, decisione, anche in questo caso politica, che era rappresentato da Federico Umberto D'Amato, Mario Tedeschi, Di Nunzio, che era un commercialista, al tempo stesso un vaticanista, viveva comunque in un ufficio blindato, sempre portato in giro da macchine di scorta blindate, che era la vera anima dei servizi americani che operavano in Italia e che attraverso questi soggetti per tutto il dopoguerra hanno gestito tutte le faccende sporche, quindi le operazioni bagnate della CIA in Italia, quelle dal punto di vista violento. Allora, tutto questo per dire che Bologna arriva a quel punto, Brescia arriva ad incriminare e poi condannare Carlo Maria Maggi, medico di Venezia, e soprattutto Maurizio Tramonte. E Maurizio Tramonte non è semplicemente un informatore dei servizi, in particolare del centro CS di Padova, che Felli e Bottallo gestivano, e gestivano tante altre cose in quel centro CS di Padova, ma nello specifico non gestivano semplicemente un informatore, perché un informatore non va in piazza dove scoppia una bomba per dire che è scoppiata una bomba e ci sono i morti, basta un telefono e bastano le agenzie, è lì perché ha un compito operativo. E questo è il merito della dottoressa Conforti, che quando il procedimento di Brescia in appello aveva sostanzialmente detto che questo era un informatore, quindi gli elementi di responsabilità in ordine alla strage non c'erano sul piano operativo. La Conforti, proprio perché la Cassazione ha detto no, non è possibile che questo abbia seguito tutte le fasi preparatorie della strage e poi fosse presente in piazza, stiamo parlando di una persona di Padova che alla mattina del 28 maggio la bomba scoppia alle 10.12 è a Brescia, quindi non è che vola, si alza la mattina e arriva a Brescia così, volando. Quindi è una persona che si prepara ad intervenire, ma gestisce l'operazione, e la sua condanna è la condanna di una persona che ha operato, quindi di un esecutore. Allora, nel momento in cui lui è un esecutore, o addirittura può essere quello che consente o non consente, l'interruttore che consente o non consente la strage, noi abbiamo delle reminiscenze. Taviani dice c'era l'avvocato Fusco, avevo incaricato di venire a Milano per fermare la strage. Cazzo, cioè prendi una persona e dici vai a Milano, ferma una strage. Che strage? Di chi? All'interno del gruppo di Frede Ventura c'era la fonte Turco, questa era la fonte Tritone, quella era la fonte Turco, che era questo Casalini, che era operativo. Quando è venuto a testimoniare a Brescia ha detto io ero uno di quelli che ha messo le cassettine di legno con l'esplosivo sui treni dell'agosto del 69. Allora, dico queste cose perché altrimenti quando si va a discutere di queste vicende ci si, non dico perde, ma ci si lascia trascinare dalle procedure giudiziarie, dai percorsi giudiziari eccetera, e si smarrisce quello che invece è il quadro che sta emergendo con assoluta chiarezza rispetto alla struttura e poi alle persone che hanno operato su questo. Allora io vi dico un altro paio di cose, perché poi, come potete immaginare, si potrebbe andare avanti all'infinito. La prima è che il primo procedimento di Brescia, quindi per strage, quindi incriminazione di Buzzi, la condanna di Buzzi, eccetera, era basato sull'articolo 422 strage semplice, cioè si va in un posto, mi stanno sulle scatole, metto lì una bomba, li accoppo 5, 6, 10, quello che mi capita, è una strage, punto. L'articolo di imputazione viene modificato mettendo l'articolo 285, e 285 è allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. E qui si entra in un ordine di ragionamenti diverso, cioè non c'è solo il compito di individuare i responsabili di una strage, ma la struttura a cui questi soggetti facevano riferimento, che erano strutture destinate ad attentare alla sicurezza dello Stato. E il discorso che prima ha fatto Fiorenzo di un quadro molto più ampio di convegni, di persone, di soggetti, di associazioni che si muovevano, sono dei soggetti di riferimento di quello che poi è stato attuato sul piano della violenza terroristica. Nello specifico, per quello che riguarda Brescia e Milano, io continuo a ricordare l'interrogatorio fatto da Carlo Mastelloni a Vittorio Emanuele Borsi di Parma, il quale in un interrogatorio nella vicenda di Argo dice in un passaggio. Ricordiamo la vicenda di Argo, che forse. Argo era un aereo utilizzato da Gladio per il trasporto del personale che. Vabbè, dopo qui siamo un po' all'italiana, no? C'erano i vetri oscurati, questi salivano sull'aereo, poi venivano portati nei campi di addestramento in Sardegna, no? E, cioè, come a dire, questo scende in Sardegna a fare gli addestramenti, cioè, dov'è? Non sa dov'è, vabbè, ma fa niente, era l'aereo utilizzato per... probabilmente abbattuto dagli israeliani per una serie di questioni che avevano quei servizi, di cui in questo momento diciamo non ci interessa. Ovviamente parte un procedimento penale, il procedimento penale approda quasi immediatamente e poi sfonda all'interno delle linee degli apparati dei servizi di sicurezza, perché era di tutta evidenza che quello non era un incidente, un episodio qualsiasi, ma stava all'interno degli apparati e quindi di conflitti anche in Occidente, perché Mossad non è certamente un servizio comunista. E Carlo Mastelloni ha il vizio, se volete, ma tutto sommato anzi è stato un bene, di andare un po' a raggio largo, per cui nel momento in cui lui interrogava i soggetti, man mano che questi prestavano il fianco ad alcune domande del giudice che cercava di capire anche un po' i contesti, nel caso di Vittorio Emanuele Borsi di Parma affiora una dichiarazione che poi è diventata e dice: lui era il comandante, il capo di Stato Maggiore della Terza Armata con sede a Padova. Questa Terza Armata viene sciolta nell'agosto del 74. La Terza Armata aveva lo scopo di militare di primo argine rispetto all'arrivo dei cosacchi, dei comunisti da est. E dice di aver assunto questo incarico nel 72 e di ricevere le informazioni necessarie all'approntamento delle collocazioni delle attività della Terza Armata dal SIOS e dal SIFAR, che attingevano ad una organizzazione paramilitare di estrema destra, probabilmente chiamata Ordine Nuovo, sorretta dai servizi di sicurezza della NATO e che aveva compiti di guerriglia e informazione. Quindi la dichiarazione generale è: Ordine Nuovo era un apparato della NATO, era una struttura di informazione e di guerriglia, quindi informativa e operativa. Si trattava di civili e militari che all'emergenza doveva comunicare alla nostra armata i movimenti del nemico, eccetera, eccetera, e nello specifico di un'organizzazione tipicamente americana, munita di armamento e attrezzature radio. Sapevamo noi della Terza Armata dell'esistenza di questa organizzazione, ma non avevamo i rapporti con essa. Ritengo che l'addestramento fosse fatto alla struttura predetta dagli americani e credo che essa dipendesse dal comando Ftase con sede a Verona. Quindi questo generale, che poi diventerà anche comandante della Guardia di Finanza, dice al giudice Mastelloni che ordine nuovo, dopo politico, non politico, organizzazione, entro, fuori, l'MSI, ordine nuovo era un'organizzazione della NATO, informativa ed operativa. Quindi questo, come dire, vi dà un quadro di quello che poi noi andiamo a trattare nelle singole stragi, e quindi poi nello specifico della strage di Brescia, e qui in qualche maniera rilancio su Fiorenzo, quando dopo 40 anni, sempre questo ispettore Michele Cacioppo, bravissimo, sbirro, bravo, probabilmente sono anche cambiati i tempi e quindi ne ha avuto modo di potersi muovere, infatti il suo responsabile, l'attuale questore di Brescia, Eugenio Spina, ex questore, sì, da oggi è ex, da domani è ex, e Ermanno Buzzi riceve un telegramma: trascorsi i giorni necessari, tornerò a Brescia, prepara tutto materiale fotografico, dettaglia preparativi, formula secondo preventivo. Mittente, un nome Andrea Sivon inesistente e un indirizzo inesistente. Questo telegramma arriva il 27 maggio e oggi, sapendo della condanna di Maurizio Tramonte, il fatto che uno degli esecutori della strage riceva il 27 una comunicazione da Padova che la stessa questura ritiene sibillina, poi partono le inchieste, cercano di sapere da Padova, ma non ci sono risposte, dà il segno preciso degli apparati che si stanno muovendo intorno ad una strage, in preparazione della strage. Ermanno Buzzi peraltro aveva già mandato due volantini, uno il 21 e uno il 27, minacciando atti dinamitardi, eccetera, contro persone, mezzi, eccetera, manifestazioni, quindi si era già predisposto una condizione, ma tutto questo fa parte, come dire, di una preparazione di cui noi stasera vi abbiamo dato solo alcuni assaggi, ma i cui documenti cominciano ad emergere non solo dalle inchieste, ma anche dai versamenti che gli atti dei servizi di sicurezza, in base alle direttive Prodi, Renzi e poi Draghi, va bene, cominciano ad affluire. Se questi documenti però, e qui chiudo la raccomandazione, chiamiamola di lettura, vengono letti per le ricostruzioni, le micro ricostruzioni, seppure di avvenimenti molto complessi durati decine di anni, eccetera eccetera, e non inseriti nei contesti di cui abbiamo parlato stasera, perdono l'80% del loro significato, vengono relegati a soggetti o associazioni o a gruppi che, come dire, e come ama dire la destra adesso, perché anche la Colosimo ed il nostro Ignazio La Russa, ma sì, erano della gente fuori di testa, sai, facevano le cose così, gente fuori controllo, che non si sapeva che cosa facevano. Noi sappiamo adesso documentalmente che tutto era preparato, pianificato e gestito con un controllo diretto da parte degli apparati americani in Italia, la NATO e ovviamente l'ambasciata e l'intera struttura. Volevo ti ho portato via. Sì, no, volevo chiedere a Fiorenzo, dato che nel libro... Il microfono. Asco. Vorrei chiedere a Fiorenzo, dato che nel libro è riportato questa informativa del 27 maggio, come... Quando è saltato fuori e chi te l'ha segnalato? Circa era nel fascicolo processuale, ma è saltata fuori dopo la bellezza di 40-44 anni. Saltata fuori, chissà come e perché. Ma a questo proposito, siccome speravo di essere lungimirante, vi dico un'altra cosa. Recentemente... ho ritrovato, forse ho riletto, ma non lo ricordavo sinceramente, un articolo del Corriere della Sera del 30 maggio 1974. Corriere della Sera, quindi vuol dire se era del 30 maggio, l'articolo è stato scritto il giorno prima. I tempi dei quotidiani lo sappiamo quali sono. Quindi, anche perché l'articolo attacca Brescia 29 maggio 74. Il giorno dopo la strage, Giorgio Zicari, agente del SID, scriveva, cerco di sintetizzarvi, il giorno dei funerali di Silvio Ferrari, fascista bresciano saltato in aria con la sua motoretta nella notte fra il 18 e il 19 maggio, tra l'altro non casualmente è avvenuta l'esplosione, ma il timer era stato puntato un'ora prima di quello che invece a lui era stato detto sarebbe scoppiato. Quindi il giorno dei funerali di Silvio Ferrari viene intercettata una 600 targata Verona con a bordo quattro individui. L'auto risulta intestata al veronese Umberto Zamboni. Ieri mattina, dopo la strage, ci si è ricordati di loro. Zamboni, subito rintracciato, ha dichiarato di avere prestato l'auto in quell'occasione a un certo Roberto Z. Già qui io ho rilevato una stranezza, perché l'intestatario dell'auto viene indicato e individuato con un nome e un cognome, mentre colui che guidava l'auto solo con il nome e la prima lettera del cognome. Si racconta chi è questo Roberto Z, dove abita, a Sant'Ambrogio di Valpolicella, quindi è proprio Roberto Zorzi, quello che è sotto processo adesso, dopo 51 anni. Gli investigatori vanno da sua madre e cercano di Roberto. Roberto non c'è perché a lavorare, mai lavorato nella sua vita, ma questo è un inciso, una parentesi. Attualmente Roberto Zorzi è vescovo di una qualche setta religiosa, non ricordo quale, gestisce un allevamento di cani che si chiama il Doberman del Littorio negli Stati Uniti. E quindi la mia constatazione è questa: ma il giorno dopo la strage, più o meno dopo, è ovvio che adesso, a distanza di tanti anni, come si fa a dire che fosse proprio il responsabile? Il dato di fatto è che adesso è a processo, naturalmente cittadino statunitense, quindi io temo, come per altri, che non verrà mai in Italia, non verrà mai estradato, si è rifiutato di partecipare al processo, è rappresentato dal legale, però ecco, sono quelle stranezze insieme al telegramma inviato a Buzzi. Questo articolo del Corriere della Sera del 30 maggio, lo sottolineo perché voglio insistere, è scritto il giorno dopo la strage, il 29, e viene individuato questo Roberto Z, che è Roberto Zorzi, perché poi abita a Sant'Ambrogio di Valpolicella come lui, eccetera, eccetera, viene dopo 50 anni sostanzialmente rinviato a giudizio. Un aspetto... io definirei simile, forse no, però molto particolare, è quello di Marco Tuffaloni. L'abbiamo già detto, è stato condannato in primo grado il 3 aprile a 30 anni, essendo minorenne all'epoca dei fatti, l'ho imparato anch'io, un minorenne non si può condannare all'ergastolo, il massimo sono 30 anni. Ma questo Marco Tofaloni è salito alla ribalta della cronaca quando un pentito Giampaolo Stimamiglio, ricordatevi questo nome perché poi capirete come mai vi sto dicendo questo, che non, che non ha fatto solo il pentito ma faceva anche altro, racconta di un incontro avuto con Marco Tofaloni al Motel Garda di Verona, gestito dalla, dalla moglie o la sorella di Elio Massagrande, Pippo, non mi ricordo, ho avuto un lapsus, comunque la sorella o la moglie, poco importa, la moglie, già esattamente, sì. E Marco Tofaloni in dialetto veronese dice a questo Giampaolo Stimamiglio: anche a Brescia c'ero io. Il fatto che dica anche a Brescia significa che ha fatto dell'altro probabilmente. Perché mi soffermo su questo? Perché Marco Tofaloni sembra fosse un habitué di Brescia, ma anche altre particolari connotazioni. Quasi sicuramente faceva parte anche di quel gruppo terroristico che si è sempre cercato di ridurre a una coppia, Abel e Furlan, che si chiama Ludwig. In più faceva parte di quella setta esoterica denominata Ananda Marga. Ha partecipato, ma non ha sottoscritto perché minorenne, l'atto costitutivo sottoscritto fra gli altri da Anna Stimamiglio, la sorella di Giampaolo. Ludwig aveva dei legami con gruppi veronesi, i guerriglieri di Cristo Re, Anno Zero, Ordine Nuovo, ma anche con due gruppuscoli, io li definisco in questa maniera forse un po' dispregiativa, bolognesi, le ronde pirogene antidemocratiche che bruciavano auto, soprattutto auto tra virgolette proletarie, perché meritavano il fuoco e inquinavano l'ambiente dal loro punto di vista. E poi nuclei sconvolti per la secessione, scusate, urbana. Questi invece bruciavano i cassonetti perché erano poco eleganti. E c'è tutta questa, questo insieme, collegamenti, Ludwig, Ordine Nuovo, Anno Zero, Guerriglieri di Cristo Re. Marco Tofaloni è diventato cittadino svizzero, avendo sposato un'elvetica, anche se adesso, vabbè, le loro strade si sono separate. La Confederazione Elvetica ha già detto che non estraderà mai Tofaloni in Italia, le loro leggi non lo prevedono, anche perché dopo 50 anni il reato anche di strage va in prescrizione. Probabilmente l'unica scappatoia, appiglio affinché venga consegnata la cosiddetta giustizia italiana è che a Marco Tofaloni venga tolta la cittadinanza svizzera, una cosa possibile se richiesta, e un deputato socialista Sommaruga ha già mosso i primi passi. Ci sono dei precedenti perché dei integralisti islamici o presunti tali, che erano però cittadini svizzeri, a loro, proprio per una questione di giustizialismo, passatemi il termine, concedetemelo, gli è stata tolta appunto la cittadinanza elvetica e sono stati estradati nei paesi che ne avevano fatto richiesta, in quanto là erano stati condannati. Io voglio fare ancora un passaggio, che è quello dell'appartamento di Via Stella a Verona. Via Stella a Verona c'era questo appartamento il cui affitto era intestato a Marcello Sofiati, più o meno il segretario di Ordine Nuovo di Verona, figlio di un ex gerarca fascista, dove è stato ospitato nel aprile-maggio 73 Gianfranco Bertoli, prima che partisse per Milano per arrivare alla questura. ma nel maggio del 74, in quello stesso appartamento, è arrivata da Venezia Mestre la bomba che è stata armata, cioè resa in grado di esplodere, che poi è stata portata in Piazza della Loggia. A questo punto non so, avevamo in programma, però adesso ho già raccontato, la proiezione di un filmato della televisione svizzera. Non so se farlo oppure sentiamo le domande, eccetera. Io volevo solo dire alcune cose che casomai rispetto a questi 3-4 personaggi relativi alla strage di Piazza della Loggia, che almeno 5 ti ha almeno 5 perché c'è Zotti. C'è in sospeso Zotti. Sì, c'è in sospeso, però diciamo la magistratura, diciamo. Ecco, scusate, io mi permetto, sì. Di solito lo dice anche Pippo, il tribunale di Brescia, tranne la prima sentenza in corte d'assise relativa alla prima istruttoria, quella Buzzi, che poi comunque in appello non è arrivata sostanzialmente alla Cassazione della condanna definitiva, il Tribunale di Brescia non ha mai finora, tranne Toffaloni, ma in primo grado, condannato nessuno per la strage di Brescia. Le condanne vengono dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Corte d'Appello di Milano. Forse c'è Robertino che vuole... Sì. Ti passo il telefono, ormai sono. Tieni. Due cose veloci. La prima è relativa alla rivista che hai citato, Obiezione Interconera Marina. Sì. Tra l'altro, proprio quel pezzo mi ricordo l'avevo letto. Allora ero ragazzino. Io sinceramente pochi anni fa, 5, 6 o 7. C'era un'altra rivista dello stesso gruppo editoriale, Eserciti e Armi. La conosci? Dunque. Perché anche in quella rivista che si occupa prevalentemente di forze di terra ci sono dei pezzi molto interessanti che possono essere letti nella stessa chiave. Se non li conosci ti consiglio di procurarteli. Tra l'altro tutta la collezione di queste riviste adesso è arrivata da uno stocchista e se va bene come archivio riusciamo a procurarcela, perché è veramente materiale davvero davvero interessante. Quindi questa era una, visto che hai fatto quell'accenno per il proseguo del lavoro, vale la pena. E ad esempio c'è un pezzo sulla difesa territoriale in Svizzera che è anche quello una sorta di manuale di controinsurrezione del genere che hai citato tu. L'altra cosa invece è perché passate da Bologna, cioè da Brescia a Bologna 80, non avete detto nulla sull'Italicus. Ma io semplicemente, ecco, perché non me ne sono ricordato. Vale la pena di... Cercando di, anche di sintetizzare. Esatto, di andarci sopra, perché è un passaggio anche quello fondamentale. Quindi volevo invitarvi a dedicare qualche parola anche a quest'altra strage. Così come lascio la parola a Pippo, nonostante noi tutti, anche voi, tende a sempre sottovalutare la strage del 23 dicembre del 84 invece, sempre tra l'altro a San Benedetto Val di Sambro, Italicus e il resto. Che peraltro era una strage fotocopia fatta dalla Camorra e dai fascisti napoletani, fatta fotocopia, cioè Schaudin, questo tecnico tedesco che poi è libero in Germania e svolge la sua vita, se non è morto per cause naturali, ha predisposto un telecomando perché il treno di quel maledetto anticipo di Natale dell'84 esplodesse esattamente nella galleria dove era esploso l'Italicus. L'Italicus peraltro esplode in quella galleria perché era in ritardo, altrimenti sarebbe esploso Bologna, che l'orario di arrivo coincide con l'esplosione dell'Italicus nella galleria. Peraltro con la confezione di un ordigno diverso ovviamente da quello utilizzato nell'84 per fare la fotocopia, perché era in gran parte materiale incendiario, cioè l'intenzione era quella di creare un'esplosione con la propagazione dell'incendio, certamente non in una galleria, perché incendio che scoppia in una galleria non fa niente, incendio che scoppia in una stazione è qualcosa di diverso. L'attentato dell'Italicus segue l'attentato di Brescia. Attenzione, ritorno al discorso di prima, le stragi sono punti di riferimento in cui, chiamiamoli punti di rottura tettonica, no? Cioè quando c'è una compressione di una situazione che deve essere risolta in una maniera violenta. E l'Italicus è una sorta di risposta alla risposta avvenuta per la strage di Brescia. La strage di Brescia doveva essere una sorta di colpo contro colpo con un attentato il 2 giugno alla parata, non necessariamente uccidendo il presidente o cosa, ma il gruppo di esposti che era partito da Milano, cioè da qua, il 10 di maggio, cioè 2 giorni prima del referendum, si era posizionato con la copertura dei servizi Bruno Luciano Bernardelli e poi il capitano Dovidio del reparto D, suo fratello Dovidio, pure di ordine nuovo, il padre presidente del Tribunale dell'Aquila. Quelli sono stati su dal 10 fino al 29, no, a sparare con un fucile che faceva saltare il tetto di un capanno. I cacciatori sono andati lì a dirgli: guardate che state tirando giù il capanno. Quindi era predisposto attentato, se non ci fosse stata la risposta come l'attentato nella folla, la folla reagisce, la polizia interviene, quindi gli scontri, e poi nella narrativa della rivista militare assalti alle sedi dell'MSI e guerra civile, c'era il colpo del 2 giugno. La cosa non va, salta, perché è saltato l'intero apparato negli Stati Uniti, i servizi americani sono saltati con l'impeachment di Nixon, insomma c'è stata tutta una fase preparatoria subito dopo il colpo cileno, che a sua volta aveva appena seguito il colpo in Uruguay, cioè due situazioni assolutamente identiche a quelle italiane. E tra l'altro lo stesso William Colby che dice: noi abbiamo adottato in Italia una serie di misure, di attività, di operazioni che poi abbiamo utilizzato in Cile per il colpo di Stato in Cile, ma il colpo di Stato in Cile ha avuto una reazione come dire planetaria, una risposta pesante, perché loro abbattevano una persona democraticamente eletta, quindi come tutori della democrazia alla faccia di... Allora, attentato dell'Italicus come risposta al fatto che i fascisti, e quindi l'ala più altranzista, quindi quella anche legata ad alcuni circoli NATO, perché non tutto è stato chiaro in quel passaggio, perché essendo saltato il presidente anche l'ambasciata non aveva più delle direttive precise, hanno tentato il colpaccio. Poi a ottobre arrestano Zanni, Di Giovanni, che erano in contatto con il bresciano Mainardi, no, tramite Massimo Confalonieri bresciano, e avevano una Land Rover identica come munizionamento e materiale a quella di Pian del Rascino, e quindi lì viene chiusa quell'operazione. Le grandi inchieste, Piazza Fontana viene trasferita a Catanzaro, l'inchiesta di Luciano Violante sul golpe Sogno viene trasferita a Roma, l'inchiesta di Giovanni Tamburino sulla Rosa dei Venti viene trasferita a Roma. Quindi l'apparato direzionale riconoscibile all'epoca e già individuato nelle indagini viene messo in sicurezza. A gennaio il giudice Fiore interroga Giovanni Aldo Moro, e gli dice: ma cos'è questa, si parla di strutture clandestine, di SID parallelo, eccetera, e lui risponde: segreto di Stato. Quindi lì viene dato il sigillo di chiusura alla conoscenza di quello che poi piano piano abbiamo riconosciuto nel corso dei tempi. Nell'84 c'è stata un'operazione in cui il messaggio della strage era un messaggio destinato a dire agli apparati di governo di quel momento, e c'è un problema che riguarda Craxi, quindi Sigonella, insomma, cioè, come dire, adesso mi fermo, perché è esattamente quel contesto politico che noi abbiamo sempre conosciuto e che abbiamo sempre analizzato, però è un contesto politico nel quale noi abbiamo visto le stragi come dei momenti in cui succedeva qualche cosa di particolarmente grave, poteva essere conferma di quello che noi analizzavamo. In realtà era un contesto proprio operativo preciso, e quindi quando tu approdi la strage della questura si doveva confermare la pista anarchica, e siccome il processo di Piazza Fontana aveva disvelato tutta la questione riguardante il Veneto e Freda e Ventura e Ordine Nuovo Veneto, si doveva trovare l'anarchico per dire: gli anarchici mettono le bombe, e quindi non è così scontato che Valpreda non c'entri niente su quella cosa. E l'ultima cosa che vi dico, ma è veramente tra virgolette una curiosità, che la strage del 12 dicembre poteva avvenire a Roma se Valpreda non si fosse spostato con la sua 500, perché l'aveva chiamato Gigi Mariani, gli aveva detto: guarda, vieni su perché devi parlare col giudice, perché stanno facendo le indagini sugli attentati dell'aprile qui a, della fiera campionaria, quindi se non vieni su questo pensa che tu sei implicato, prende la 500 e viene a Milano. Se voi analizzate un attimo la questione, capite che il 12 dicembre del 69 scoppiano le bombe a Milano, ma scoppiano le bombe a Roma. A Roma l'apparato era quello riferito a Stefano Delle Chiaie ed era sotto il diretto controllo degli affari riservati. A Milano scoppiano le bombe e sono sotto il controllo NATO, e scoppiano per conto operativo da parte di Ordine Nuovo Veneto. La conferma è che l'intero staff degli affari riservati si trasferisce armi e bagagli, ma proprio bagagli nel senso tutti gli schedari, si trasferisce nella questura di Milano e lì gestisce la questura. Quindi gli affari riservati che dipendevano da Federico Umberto D'Amato, uomo della CIA, cioè il rapporto diretto con Jimmy Angleton, il responsabile di controspionaggio per l'Europa, Israele, no? E del controspionaggio della CIA, proprio CIA, all'epoca era la CIA il capo di CIA, direttore della Central Intelligence, è un rapporto organico, e lo sviluppo degli affari riservati è lo sviluppo di una polizia parallela che si appoggiava alle questure, ma che era sotto diretto controllo americano. Allora, oggi queste cose emergono anche dalle indagini di Bologna, quindi anche della responsabilità di questi soggetti in ordine agli eventi, quindi tutte le cose ovviamente cominciano ad essere concatenate e in fila tra di loro. Ritorno al punto 285, è insurrezione contro lo Stato, sovversione dello Stato, quindi non è più soltanto un problema di quelli che hanno operato fisicamente in quel contesto, ma di strutture di cui ancora noi oggi non sappiamo se esista una continuità, oppure se per qualche motivo di riordino interno, ma non mi risulta, siano state smantellate. Volevo chiederti, dato che hai fatto questo quadro internazionale, hai parlato del Cile, dell'Uruguay, in Europa l'unico paese attenzionato è stato l'Italia o c'era qualche altro? C'erano l'Italia e la Francia. E la Francia. Solo che De Gaulle nel 62 allo scontro, 62-63 allo scontro con gli americani, pesante, perché la Francia è impegnata militarmente anche in Vietnam, Laos, in Indocina, e gli indocinesi sono quelli che vanno poi in Algeria a fare la guerra all'insurrezione FLN algerino, no? Per poi diventare OAS, per poi diventare struttura operativa della CIA con un accordo fatto a Lisbona nel 61-62, poi nel 67 nascerà la Ginterpress. E quando De Gaulle dà lo scrollone denunciando i patti segreti della NATO e dice ci sono i patti segreti, noi questi patti segreti non ce ne frega niente. Quindi nella SEATO noi non entriamo perché veniamo via dall'Indocina, sono affari vostri e non intendiamo infognarci lì dentro. Due, denunciamo i patti, tanto è vero che poi c'è anche un grosso scandalo di un grosso dirigente, Thiraud de Vosioli, francese, che viene allontanato e mandato negli Stati Uniti perché era la quinta colonna degli americani nei servizi francesi. L'attenzione che gli americani avevano rivolto alla Francia in tutti i rapporti della CIA dell'immediato dopoguerra fino agli anni 50-60 sono tutti Italia-Francia-Francia-Italia, va bene, e si muta il quadro. Gli americani mettono il punto saldo a Monte Carlo come centrale di controllo anche dell'apparato francese, quindi questo meraviglioso matrimonio della Greschelli col principe e tutte queste cose, era perché il territorio del Principato di Monte Carlo sarebbe dovuto, per gli accordi e i protocolli attinenti ancora alla storia della Francia e di Monte Carlo, francese, se il Principato non avesse garantito una sua continuità, che viene garantita dagli americani quando arriva lì Greschelli e diventa poi la centrale operativa della CIA per miliardi di cose, non ultime le nostre italiane. Vabbè, ma tutte queste cose sono collegate fra di loro, bisogna avere quel minimo di pazienza di collegarle, perché poi ovviamente essendo nella NATO Giannettini era un agente del BND ed era un agente tedesco, Carlo Fumagalli era un concessionario della Mercedes, i concessionari della Mercedes per molti anni erano agenti del BND, ma cioè non è che siano cose fuori dal mondo, però questo voleva dire l'appoggio dei tedeschi, Gino Ragno, Italia, Germania, me ne vengono fuori a catena queste cose, che fanno però di un apparato, di una struttura molto più ampia di quella che noi possiamo rilevare, per quello che continuo a dire 285 ha tentato la sicurezza dello Stato. Perché questa cosa non riguarda quattro defunti e una manica di fuori di testa. E secondo me non è un caso, ragionandoci, che Colosimo e La Russa comincino a fare alcuni ragionamenti dicendo sono i nazisti più che nazisti, e sono cose che abbiamo già sentito a Brescia decine di volte. Va bene, volevo chiedere se qualcuno doveva fare delle domande. Qui... Sì. Ma sono abbastanza. Puoi venire, dovresti venire. Una è la domanda: perché Brescia? E non. Non so. Cioè, perché Brescia in quel momento particolare? O tenti di risponderti subito? Ma ti do. Sono. Poi, se. Vabbè. Ci sono stati anche altri tentativi di golpe in Italia nel periodo, giusto? Quello borghese, mi sembra. Sì, quello del 70. Quindi quelli sono tutti, ma anche successivamente mi sembra che qualche organizzazione c'è stata, perché Andreotti ha bla bla bla. E sono tutti in questo filone. Io mi sono limitato, tra virgolette, perché c'erano questi, ci sono stati questi convegni anticomunisti e ci sono all'interno di questo una serie di tentativi. 60, 64, 70, 74. Ma è una fase, forse borghese no, però è successiva a questi convegni anticomunisti. Sì, 70, sì, 61, però comunque vuol 63, dire 63-65. Rimangono all'interno di questo contesto, voglio dire. Sì. Probabilmente, dico. Probabilmente, sì, certo. Poi un'altra volevo domandarvi invece se, siccome c'era Feltrinelli, aveva fatto, era stato molto attento sulla possibilità, l'estate, no? 69. Se voi avete trovato nei documenti che ha scritto lui qualche verità, non so come dire, se ci aveva visto giusto, se aveva intuito delle cose oppure no. Poi un'altra cosa che mi veniva da domandare, da dire, ma forse c'era anche la Grecia, non era un punto di riferimento? Sì, certo. Con la golpe dei colonnelli, tutti infatti, i viaggi dei fascisti che sono andati dopo a... il convegno al Polio c'è stata la gita in Grecia. Dove ci sono bla bla bla, eccetera, eccetera. E poi l'ultima che volevo dire, questa è una domanda gossip, ma il fatto che D'Amato poi scrivesse per l'Espresso... Che le sue vi siete gastronomiche. Esatto, vi siete fatti un perché o... Io no, dico l'Espresso è quello che aveva denunciato il golpe del 64, non so, quello più una curiosità. Io tento di risponderti ovviamente, di dirti la mia opinione, perché Brescia eravamo in un periodo, non tanto la città della Leonessa, ma l'Italia, di forti tensioni. Brescia probabilmente o forse sicuramente è stata poi scelta perché c'era stato il 18-19 maggio del 74 la morte di questo fascista Silvio Ferrari, che poi, se avete seguito le vicende anche recenti, sembrerebbe che fosse un confidente sia dei carabinieri che della questura. La sentenza della Corte d'Appello di Venezia indica e individua in un altro fascista bresciano veronese con lo stesso cognome di Ferrari ma non parente, e lo condanna per omicidio colposo. Dico bene, Pippo? Sì. E quindi c'è stata questa voglia, questa sorta di vendetta che poteva assumere un duplice aspetto nei confronti di Silvio Ferrari, perché forse, probabilmente, anche perché, come dicevo prima, il timer che era stato, che serviva per innestare la bomba che lui trasportava, a lui era stato detto che sarebbe scoppiata alle 4, invece è scoppiata alle 3, quindi lo si voleva eliminare. Recenti indagini con la super testimone Ombretta Giacomazzi. Qui un aspetto che non abbiamo ancora toccato o ricordato, Ombretta Giacomazzi poi, dopo le sue vicissitudini giudiziarie, sposa il figlio dell'industriale Sofiantini, rapito da una banda cosiddetta di sardi trapiantati in Toscana. Il capitano Delfino, che era quella che lei adesso accusa di essere il suo persecutore, in quanto gliene ha fatta passare, come si suol dire, di tutti i colori in quel periodo, amico della famiglia Sofiantini, o comunque messo in contatto da un suo amico con la famiglia Sofiantini, dice che per la cifra di la misera cifra di 800 milioni di lire di allora è in grado di far liberare subito il sequestrato. La cosa non è vera, c'è un processo, viene condannato, alla fine viene nominato generale, ma poi viene degradato e gli viene tolta la cosiddetta divisa. Quindi la strage di Brescia ha probabilmente l'obiettivo di vendicare colui che loro avevano eliminato. E questa è la mia opinione, la mia risposta. Aiutami le altre, quali erano, per cortesia? Feltrinelli, tu sai che ci sono quei due famose sue pubblicazioni, estate 69, persiste ancora il pericolo di un colpo di Stato in Italia, e lui aveva questa lettura che era sicuramente resistenziale, e in virtù anche del golpe che c'è stato in Grecia, credeva o temeva che si potesse verificare altrettanto in Italia. Poi delle corrispondenze specifiche io non ne ho colte, ma probabilmente è un mio limite e incapacità. Sì, no, nel senso vuol dire che era una persona informata, vuol dire, quindi... Era sicuramente informata. Ma sai, erano teorizzazioni come in quel periodo, ce ne sono state tante. Sì, ma non, ma di più. Allora, di più, perché Gian Giacomo aveva... Allora, tutti sapevano, o comunque, l'omicidio De Mauro, una serie di questioni relative a Piazza Fontana, la morte di Armando Calzolari, il Fronte Nazionale di Borghese era stato messo nel mirino, diciamo, chiamiamolo anche pubblicistico, e il Fronte Nazionale di Borghese non era un'organizzazione, come dire, un'associazione combattentistica, era una cosa che aveva una presenza territoriale in tutta l'Italia, peraltro poi si scoprirà che aveva un'organizzazione provinciale, cioè ogni provincia doveva avere un suo nuovo prefetto, un suo nuovo questore, che era lo schema americano del progetto Phoenix o dell'operazione Phoenix in Vietnam, dove ogni regione, ogni provincia aveva i responsabili provinciali che gestivano, come dire, la cattura, gli omicidi dei Vietcong e le situazioni politiche territoriali. Quindi questa è una, come dire, è un livello di conoscenza piuttosto approfondito se poi si cominciava a leggere e a seguire le persone. Io la butto lì, ma lui secondo me ha commesso l'errore di fidarsi troppo, tra virgolette, dei partigiani, perché uno di questi partigiani si chiamava Carlo Fumagalli. E quindi lì c'è una questione che resta sempre aperta. Carlo Fumagalli si qualificava come partigiano antifascista, partecipava alle cerimonie del 25 aprile in Valtellina, gestiva la banda degli sciamannati, chiamiamoli neonazisti, comunque disponibili, ragazzi anche di buona famiglia, disponibili a fare azioni, logistica completa, perché poi questo è il problema del mar, ma restiamo su Feltrinelli, e quindi hanno cominciato a seguirlo, ci sono i documenti che riguardano quelli della Fenice che avrebbero dovuto catturarlo, sequestrarlo, ucciderlo, poi era ritenuto molto pericoloso per la questione dell'indipendentismo sardo, i suoi contatti con Mesina. Peraltro Delfino ha operato prima di venire a Brescia in Sardegna, è lì che ha messo in piedi una rete antisequestri che ha funzionato per parecchi anni per le sue conoscenze con Totò Riina, con gli ambienti indranghettisti calabresi. Il punto è che Feltrinelli aveva toccato il punto giusto, cioè aveva indicato l'effettiva possibilità, e l'effettiva possibilità era data dal colpo di Stato in Grecia, che aveva seguito esattamente i canoni prescritti, no, i manuali dei servizi americani per impadronirsi del paese. E qui ovviamente lui è entrato nel mirino. Però ti ho toccato la questione di Carlo Fumagalli, perché nella questione della strage di Brescia c'è stata la sequenza, diciamo, occasionale, causale, la morte del Silvio, però la morte del Silvio è stata definita inizialmente, e di fatto il timer è stato messo alle 3 e non alle 4, come un omicidio che doveva creare le condizioni per fare la strage a Brescia, ma siamo già a Brescia, e a Brescia ci siamo dal 9 marzo del 1974, cioè quando viene deciso di prendere Kimbo Romeo e Spedini, Giorgio Spedini, in Val Camonica con una macchina carica di esplosivo, e la macchina carica di esplosivo di armi gli è stata data da un fiduciario di Delfino, ovvero un fiduciario che si chiama Gianni Maifredi, che gli ha organizzato l'operazione di... quindi c'era la precisa volontà di insediare a Brescia un procedimento rispetto ad un'organizzazione logistica che era il punto di cerniera tra SAM, perché avevano i volantini delle SAM, quindi Ordine Nuovo, Ordine Nero e tutte le varie sigle che ti puoi inventare, e i generali, perché i cosiddetti ragazzi del Mar portavano in giro i generali latitanti della Rosa dei Venti e avevano appartamenti a Milano dove mettevano latitanti queste persone, quindi una cerniera ben precisa. Quella cerniera non è stata spostata da Brescia. Nel momento in cui nell'inverno del 74 viene fatta Piazza Pulita, quella struttura resta sotto inchiesta a Brescia, ma resta sotto inchiesta a Brescia perché l'obiettivo era quello di incastrare il figlio del giudice Arcai, del giudice che aveva in mano quell'inchiesta, nella vicenda della strage. Quindi era, cioè, quando si parla di menti raffinatissime, cioè si parla di menti raffinatissime, si parla della Sicilia, quindi sembra che questi... No, sono cose che sono andate avanti per anni e tutti i meccanismi erano a chiusura, cioè tutti i meccanismi erano autoprotettivi, c'era poco di lasciato andare, e la vicenda del fino di Brescia localizzata come una lite con il giudice Arcai perché poi aveva fatto accusare il figlio, eccetera. E Delfino era in contatto permanente e quotidiano con Palumbo, che era il comandante dell'Italia settentrionale di via Moscova, no? della Pastrengo, che gestiva anche Padova, quindi che gestiva anche il gruppo. E quindi in questi elementi di continuità, tragicamente, io dico, nel momento in cui viene deciso di insediare a Brescia il processo del Mar, si decide anche che Brescia, come dire, lo dico, è una questione tragica ma paradossale, una sorta di campo di gioco, e si gioca lì la partita di scontro, no? Però ti ripeto e vi ripeto che sono partiti il 10 di maggio da Milano per andare a Pian del Rascino, collegati con Brescia e in attesa di quello che sarà Brescia. E quindi le sequenze logiche e le potenzialità e le capacità di questi gruppi non erano legati soltanto alla loro organizzazione. Ho parlato di Giorgio Zicari. Giorgio Zicari faceva i rapporti del SID intervistando, tra virgolette, Carlo Fumagalli. Quindi era l'uomo che stava addosso a quella struttura cerniera che era, in qualche maniera, poteva essere il punto debole, no? Rispetto all'impianto generale. Ma nel momento in cui veniva controllata attraverso il giudice, che era sostanzialmente paralizzato su quella questione, e poi chiude proprio quando rientra Bruno Luciano, vabbè, sono storie lunghe, ma in ogni caso ci sono le conferme. Si è parlato dell'Espresso, allora l'Espresso c'era Lino, c'era Eugenio Scalfari e Lino Iannuzzi. Lino Iannuzzi, se voi avete seguito la carriera successiva di Lino Iannuzzi a quella del 64, viene in campo socialista, come Eugenio Scalfari naturalmente, si smarca, diventa il socialista craxiano di sostegno, eccetera, e mette in piedi Ridà Vita al Tempo, che era un settimanale morto, lo riesuma proprio nei primi giorni, nei primi mesi del 76, e diventa l'arma di bombardamento di Giannadilio Maletti, che si è trovato spiazzato nella vicenda di Piazza Fontana non è così sicuro degli appoggi che aveva avuto quando nel 74 con Andreotti aveva fatto fuori Miceli e avevano escluso dal nome dei golpisti Borghese, del golpe Borghese, una serie di nominativi, tra cui quello di Gelli, dell'ammiraglio Torrisi, di altri comandanti generali, dalle grinfie della magistratura sostanzialmente. Allora il Partito Socialista entra in campo, e quindi entra in campo come partito di potere, ragiona nei termini di un partito di potere, quindi nel rapporto con i servizi, quindi di garantire agli americani un livello di copertura e quindi garantirsi, diventa Presidente del Consiglio, attentato dell'84 quando da D'Amato, no, fa le scene su Sigonella e sulla posizione. Quindi, come vedete, cioè tutte le cose poi piano piano vanno al loro posto, perché quelle che apparentemente Feltrinelli, quando scrive quei due opuscoletti e anche un'altra serie di interventi, si attrezza come se potesse organizzare una risposta ad un colpo di Stato, no? E quindi mette in atto i meccanismi di risposta, io non dico ingenuo, però sicuramente non aveva ben compreso che l'impianto era molto più ampio, molto più esteso, e che alla fine delle finite non aveva neanche queste grandi coperture, perché con l'operazione del dottor Zivago anche i sovietici avevano detto di andare a cagare, scusate l'espressione. Per cui, cioè, come dire, poteva essere anche un soggetto fuori controllo, e quindi in quanto tale, ovviamente editore, poteva avere le disponibilità di comunicazione, eccetera. Qui si ritorna che il terrorismo è comunicazione, e quindi chi interferisce con il sistema di comunicazione è soggetto da eliminare, marginare e comunque rendere inabilitare a rispondere a quello che sono i messaggi degli attentati, della violenza, che della cosiddetta strategia della tensione e tutto il resto. Mi fermo perché si va avanti. Arturo. Sì. Perfetto. Scusate, io volevo riprendere una questione che poneva Fiorenzo, e sulla base della tua domanda, no, perché Brescia? Pippo ha spiegato tutta una serie di cose, di mare e così via, ma dobbiamo anche ricordarci il periodo. Noi nel 74 uscivamo dalla grandissima vittoria del referendum. Si apriva una grande spaccatura nel mondo cattolico, nella Democrazia Cristiana, che governava l'Italia e Brescia, quasi, come dire, con percentuali incredibili. E poi, come si ricorda nel libro, che secondo me giustamente Fiorenzo ha intitolato Vuoti di memoria, noi in quei mesi abbiamo subito una serie di continue aggressioni dei fascisti nelle fabbriche e nelle scuole, anche perché Brescia fu una città protagonista nei due anni dei consigli di fabbrica, ma anche nel 73-74, soprattutto la Valtrompia, ma anche le grandi fabbriche in città, furono momenti di grande lotta e di grande tensione. Quindi, come dire, oltre a tutte le questioni elencate, se voi leggete il libro di Fiorenzo, questa cosa emerge fortissima. E quindi non solo c'è stato il fatto che Silvio Ferrari salta in aria e la reazione immediata è fatta solo da una parte della sinistra, perché a presidiare il luogo dove è saltato in aria Silvio Ferrari c'eravamo solo noi del Movimento Studentesco, e per giorni abbiamo insistito rispetto anche al sindacato perché si facesse lo sciopero generale rispetto alla questione. La risposta fu che lo sciopero generale fu convocato, con parole d'ordine nel fatto di queste continue tensioni e aggressioni fasciste, e credo che anche questo non sia un aspetto secondario che secondo me nel libro di Fiorenzo viene esposto in maniera molto chiara. Quindi, come dire, c'è, oltre alle cose dette anche da Pippo e così via, c'è una questione politica, come anche per quanto riguarda L'84 dobbiamo ricordare che non c'era solo la questione Sigonella, ma c'era tutta la partita aperta lanciata da Berlinguer sulla questione dei missili, degli euromissili, dei cruise e così via, con la grande manifestazione che si fece a Comiso e così via. Quindi, come dire, nel 74, secondo me, questa cosa qui è all'interno di una grandissima preoccupazione nazionale e internazionale che poi scaturì nel 75 e nel 76 in una grande avanzata. Può piacere o non piacere per noi che eravamo a sinistra del PC, ma di una grandissima avanzata della sinistra e di quindi una grandissima difficoltà da parte delle forze che fino allora erano dominanti. Quindi credo che è per questo che vi invito a leggere il libro di Fiorenzo, perché non c'è solo una questione di inchieste, di tribunali e così via. C'è, e non a caso Fiorenzo la chiama vuoto di memoria anche rispetto a una fase bellissima che c'è nel libro, rispetto sulla situazione di oggi, no? Rispetto, come dire, a determinate cose fondamentali per la pace, e sappiamo tutti che momento stiamo vivendo, ma anche questa questione fortemente politica e non, come dire, uno scontro tutto interno agli apparati di potere, ma una strategia ben precisa che mirava, rispetto ad altri, anche ad altri paesi, bisogna ricordare, rispetto alla domanda che si diceva, che tu facevi, rispetto a quali altri paesi europei, che l'Italia aveva rispetto a altri paesi europei una sua posizione diversa, perché in Italia c'era il sindacato più forte d'Europa e c'era un partito comunista che era il più grande partito comunista dell'Europa occidentale. Quindi io credo che anche queste cose siano cose da sottolineare e secondo me nel libro sono ben presenti. E ricordo solo che Arturo è di Brescia. Solo per sentire. Ma la roba che invece dicevano che l'attentato doveva essere fatto ai carabinieri che presidiavano la piazza, che si erano spostati perché pioveva. Stare qui tutta notte? No, era perché mi viene in mente. No, no. C'è già che ci è un'occasione unica per tutto. Vabbè, no, era giusto. Facciamo rispondere a... No, fai anche la domanda di Robertino. Ah no, perché io non sono d'accordo con quello che dirà Fiorenzo sul... Perché si entra nei dettagli e nei dettagli ci siamo persi per anni, hai capito? Quando poi invece il quadro generale era chiaro. No. Vorrei ricordare un particolare su Piazza della Loggia. Si è parlato di Silvio Ferrari, c'è un altro Ferrari. Ed è Maurizio Ferrari, Mau, che racconta come lui fu arrestato poco dopo. Tentarono di accollargli Piazza della Loggia, così come successivamente, ricorderete, ci fu il tentativo di individuare nei presenti il volto di Renato Curcio. Quindi una cosa che non ebbe... però ci fu anche questa che... una ripetizione dello schema Piazza Fontana. Ecco, volevo ricordare questo particolare. Allora, per quanto riguarda la questione di Renato Curcio, io e Pippo siamo attori in prima persona e poi ti dirò perché. La questione... Dov'è andato? Guarda che poi ti ubriachi, eh? La questione dei carabinieri. Io ero in Piazza Loggia quella mattina, non lo considero un merito, non considero una colpa come chi magari invece, pur essendo un compagno antifascista, quella mattina non c'era per mille motivi. Pippo doveva fare un esame essenziale e infatti venne bocciato. Non l'ha mai fatto. Un'altra compagna, per una banalissima questione di mancanza di coordinamento, doveva passare a prenderlo un compagno che aveva difficoltà personali enormi e quindi dormiva in macchina, non si è svegliato. Siccome pioveva, doveva arrivare questa compagna con la mostra che avevamo predisposto, non poteva prendere i mezzi, non aveva la macchina e quindi non c'era. Per cui, questa per farla breve, ero lì, ma non mi considero un eroe, ero insieme ad altre migliaia di persone. Io ho sempre pensato, sin da subito, ero insieme ad Arturo quella mattina, l'abbiamo trascorsa insieme, non voglio essere patetico, ma 2, 3, 4 minuti prima che scoppiasse la bomba abbiamo lasciato il gruppo degli insegnanti, coloro che sono tra i principali vittime, lì via Bottardi Milani, Alberto Trebeschi, Clementina Trebeschi, la moglie, Luigi Pinto, Giulietta Banzi Bazzoli, perché avevamo un rapporto ovviamente politico ed eravamo stati lì con loro. Siamo passati davanti a quel cestino 2-3 minuti prima che esplodesse. Io ho sempre pensato, lo dico ancora, scusa Totò, che quella è stata una strage voluta e gli esiti sono sotto gli occhi di tutti, contro la classe operaia, il movimento popolare e gli antifascisti. Riflettendoci, ed è qui che divergo da quanto sostiene ancora e sempre Pippo, nei pressi del cestino dove è esplosa la bomba si posizionavano abitualmente i reparti di carabinieri e celerini. Quella mattina, per una questione, io ritengo, meteo, atmosferica, questi contingenti si sono spostati e sono andati nel vicino Broletto, il palazzo del governo, centinaia, 200 metri. E quindi non erano lì dove di solito stazionavano. Se la bomba fosse esplosa, probabilmente avrebbe la bomba causato 20, 30, 40, 50 morti. E quindi questa è, ripensando, ma io sono arrivato a questa considerazione non un anno dopo la strage, 30 o 40 anni dopo, riflettendo, quello era un'azione, come si legge, si dice, si scrive da tante parti, che voleva destabilizzare per stabilizzare. Perché se lì ci fosse stata, come poteva essere possibile, una carneficina di carabinieri o poliziotti, la reazione quale sarebbe stata? Poi l'altra domanda che mi interessava molto, scusami, no, quella di Robertino? Ah, su Mao. Sì, c'era stato questo tentativo, però quello che hai ricordato tu, del luglio 74, quando in Piazza Loggia venne svolto il cosiddetto processo popolare contro i fascisti assassini, organizzato dal Comitato per la Libertà di Opinione, era un'organizzazione che faceva diretto riferimento al Partito Comunista Marxista Leninista Italiano, quello di Aldo Brandirali. Tra l'altro parteciparono Dario Fo, Franca Rame, Lazzagna, Franco Catalano. Ci fu una partecipazione anche di personalità politiche notevole. Al termine venne deposta una corona di fiori al luogo dove era esplosa la bomba. Non c'era ancora la stela, eravamo nemmeno a un mese e mezzo dall'attentato. E io ho fatto delle fotografie. Ho fatto delle fotografie dove venivano inquadrati questi militanti del PCML che rendevano omaggio alle vittime, e ho inquadrato perfettamente uno che salutava col pugno chiuso e che aveva una vaga o forte, se vogliamo, somiglianza con Renato Curcio. Adesso non ricordo più esattamente quanti anni dopo, ma pochi, il settimanale era un settimanale fascista il cui titolo era mi sembra nel 76 o forse 75 o 76, uscì con questa paginetta dove dicevano che in città a Brescia si era visto Renato Curcio e spacciavano quella fotografia, che tra l'altro era successiva alla strage, addirittura al giorno della strage, addirittura come del pomeriggio o della mattina. E quindi si è costruita e si è cercato in maniera molto rozza, io credo, sia con Maurizio Ferrari sia con Curcio, di imbastire una cosa impossibile sostanzialmente. E adesso Pippo vi dirà la sua sui carabinieri e poliziotti. Non parlo di carabinieri perché su questo litigheremo sempre, ma non allora attenzione, siccome è parte del pacchetto, il tragico pacchetto di una strage, ci sta tutta la disinformazione, i depistaggi, eccetera, quindi tutto quello che ci potete mettere. Quindi queste cose sono riflessioni che andremo avanti a fare all'infinito. L'elemento importante, secondo me, è che l'evento di strage è sempre accompagnato da questi tentativi di attribuzione ad altri. Allora, noi abbiamo 1972, la strage di Peteano, è organizzata da Vinci Guerra e dalla famiglia, quindi il fratello gemello, la sorella e il gruppo di Ordine Nuovo. Ha come obiettivo i carabinieri, perché li chiamano telefonicamente, sono loro, non rivendicano l'attentato, quindi non è un'attribuzione contro le istituzioni, e i primi accusati sono quelli di Lotta Continua di Trento, il tentativo fatto dai carabinieri di attribuire la responsabilità a Lotta Continua di Trento. Non riuscendo ad approdare direttamente a quella cosa, accusano un balordo, la sua banda, che poi è stato utilizzato anche nel processo strage di Brescia, dicendo ecco Buzzi e il balordo, ma Buzzi era un'altra caratura, e anche quella pista si scioglie. Nel frattempo i servizi organizzano un deposito di Camerino nel quale fanno trovare delle copie di Lotta Continua insieme a delle armi e dell'esplosivo. È un'operazione fatta direttamente dal NOD di Labruna, il gruppo operativo del controspionaggio dipendente da Maletti. Quindi sistematica è l'attribuzione ad altri. Dopo la strage di Piazza Arnaldo vengono incarcerati Renato Corsini, Kendami, eccetera, che non c'entravano assolutamente nulla su quella cosa, ma l'effetto mediatico era, a distanza di 2 anni dalla strage, siamo nel dicembre del 76, a Brescia la bomba le mettono i comunisti. Sono cose che poi cadono perché sono semplicemente dei depistaggi intenzionali. Il depistaggio adesso è punito, perché Paolo Bolognesi è riuscito a farlo introdurre nel codice penale, quindi il reato di depistaggio è presente. All'epoca non c'era, chiunque poteva dilettarsi di questo sport, ma in particolare quelli che erano legati alla struttura e all'organizzazione di, quindi è abbastanza logico che gli organi investigativi andassero in quella direzione. Ma se noi dovessimo parlare di questo, anche per Brescia, di depistaggi ne troviamo a catena. Miotti nel ottobre del 1900, poi arriviamo ai gossip, ma nell'ottobre del 74, quando le indagini in qualche maniera ristagnavano perché si doveva sciogliere il nodo del trasferimento dei processi importanti e dell'omissis da mettere su tutte le vicende, sbuca un certo Miotti, Giuliano Miotti, che viene da Padova, tanto per cambiare, legato ad un'agenzia investigativa di Padova che porta i magistrati di Brescia in mezza Sardegna, dicendo cose che no, l'abbiamo avuto con Bologna, Ciolini, cioè voglio dire, si entra veramente. Lo sport preferito era colpire alla sinistra, no? Quindi tutto quello che si riusciva a colpire a sinistra lo si faceva subito da Chito, diventava, come dire, un riflesso condizionato. mi fermo perché è finito. Va bene. E... volevo appunto contribuire come ecco, poi magari lo fomentiamo assieme, no? Più che volevo contribuire a un dubbio, perché io non ho certezze su questa cosa che sto per dire. Tornando un attimo indietro a Gianfranco Bertoli, ora tu quando prima parlavi di lui, se non ricordo male, hai parlato di un libro scritto, ho capito male io, un libro scritto dalla compagna di un'intervista della compagna di Paolo Finzi. Sì, sì, sì, ho capito. No, ho capito che era un libro, però ho capito male. Ecco, a proposito della figura di Gianfranco Bertoli, saprai benissimo che c'è un carteggio tra Alfredo Bonanno e lui, no? Che è durato tanto. E... sì, sì, sì, sì, certo. Solo che appunto tu hai detto che a un certo punto che quelli di A Rivista a un certo punto hanno detto che hanno sbagliato tutto. No, non l'ho detto. No, loro... Hai riferito quello che hanno detto loro? Alla moglie di Paolo Finzi e alla loro figlia, che a un certo punto gli chiedono espressamente di Gianfranco Bertoli, loro dicono, ho il link sul telefono se vuoi te lo do. No, no, figurati. In cui dicono che purtroppo ci siamo resi conto che avevamo posto male la nostra fiducia, ecco, avevamo sbagliato tutto, l'ho sintetizzato. Ecco, cioè... No, no, d'accordo, ma comunque da una parte c'è questa, diciamo, versione e dall'altra c'è anche quella, c'è il carteggio che c'è stato tra Alfredo Bonanno e Bertoli. Ora, io non ho certezze, ho tanti dubbi, anche dopo aver letto il carteggio mi rimangono dei dubbi. Lui fai conto che all'inizio sosteneva che Bertoli era fascista, cioè all'inizio quando è successa la cosa, no? Ecco, poi in seguito, dopo il carteggio, ha rivisto un attimo quella posizione, ecco. A me il dubbio che rimane è questo, che un fascista, in genere i fascisti sono orgogliosi di essere fascisti, lui è rimasto per 30 anni definendosi anarchico. La bomba a mano l'ha tirata contro Rumor, durante l'inaugurazione della targa, oppure comunque era l'anniversario della morte dell'assassino di Pinelli, quindi Rumor per me non è un obiettivo stragista, cioè nel senso che non è che ammazzi Rumor, fai una strage, ammazzi Rumor che aveva delle responsabilità ben grosse, no? Quindi il dubbio rimane. Ecco, perciò quando si parla di Gianfranco, secondo me, Gianfranco Bertoli, secondo me diamo un po' tutte e due le versioni, cioè tutte e due i dubbi, ecco, solo questo volevo dire. Hai perfettamente ragione e apprezzo il fatto che tu abbia dubbi, perché uno solo, io invece ne ho molti di più, anche rispetto alla faccenda di Bertoli, tant'è che io ho anche elencato tutti gli articoli che lui ha scritto per A Rivista Anarchica. Ho ricordato la posizione di Cesare Lanza, che ha accolto inizialmente a braccia aperte Bertoli introducendolo su A Rivista Anarchica e poi allontanandosene perché non riteneva fosse. Poi il fatto che uno si dichiari o non si dichiari appartenente, abbiamo avuto tanti esempi. Partiamo da Luigi Cavallo, con quello che ha fatto e con quello che ha detto. Mi rendo conto che la figura di Gianfranco Bertoli è divisiva e io ti dico, non ho nessuna difficoltà ad accettare quello che tu hai detto e che hai fatto presente. Mi sembra, e uso mi sembra, che a questo punto siano molti più i dubbi che le certezze relativamente alla sua genuinità. Poi, come facciamo a stabilire che ho ragione o torto, oppure hai ragione o torto tu? Ecco, io credo che, vogliamo banalizzarlo, mi permetti, che un anarchico che si è fatto tatuare... Sì, lo so, io immagino che tu la sappia, non tanto due giorni prima, né Dio né patria, io sono ateo, razionalista e quindi mi è facile, poi si faccia fare i funerali religiosi. Ti ho detto all'inizio, banalizziamo, questa è una banalizzazione, però un minimo di coerenza, io ritengo, lo si debba avere anche in certe questioni personali, piccole o grandi, non mi sembra piccola. Poi, credo che ormai sia provato che fosse la fonte negro di un servizio di informazione segreto, il SIFAR. Questo... Quindi possiamo dire un uomo dei servizi, il servizio lo lasciano dentro tutta la vita? Ma sai, lo lasciano dentro tutta la vita perché se esce, oppure potrebbe anche esserci, io adesso sto divagando, potrebbe anche esserci il timore che lui a un certo punto dica come sono andate le cose. Come mai quando viene a Milano l'unica persona che contatta è un suo vecchio camerata di Mestre Venezia, Rodolfo Mersi, sindacalista della CISNAL? Io sinceramente, io non sono anarchico, non disprezzo gli anarchici, io sono comunista, però se io vengo a Milano non vado a cercare un sindacalista della CISNAL, non ci vado. Mi rendo conto che sono piccole cose quelle che ti sto dicendo e che sto dicendo, però vanno tenute in considerazione. E non mi sembra, io ho letto anche recentemente la sua autobiografia, quella edita da Senza Patria, e leggendola ci trovo molto, pur non essendo anarchico, quindi non avendo una conoscenza approfondita, questa distonia. Mi sembra che sia proprio una cosa attaccata e a cui lui si cerca di arrampicarsi sugli specchi. Però ti dico, io non ho certezze e nemmeno volontà giacobine, però mi sembra che siano tanti gli elementi a suo sfavore, ecco. Ma non di un tribunale, che non me ne frega, come ho detto prima, nulla. Per quello che ho letto, che ho visto, che ho sentito. L'ultima intervista, o meglio, l'intervista che è stata rilanciata, mi sembra che la moglie di Paolo Finzi, Failla, sia morta all'inizio di aprile. C'è questa intervista e nello specifico alla questione Bertoli rispondono così. Hanno ragione perché una è la moglie e l'altra è la figlia di Paolo Finzi? Non lo so, sinceramente, però per me diventa significativo. Solo questo. Ah, volevo chiederti. No, no, ma anch'io non ho assolutamente nessuna presunzione in questo caso. No, ma volevo chiederti, ma la bomba che ha tirato in via, cioè lì alla questura di via Fate Bene Fratelli, tu hai scritto anche qui, hai affermato che era stata preparata in un appartamento a Verona. L'ho ripetito anche prima, in via Stella a Verona, che era la... Scusa? Sì, quella che di Bertoli era una bomba a mano, gli è stata consegnata dove è stato portato e per alcuni giorni è stato, tra virgolette, addestrato. Io di solito uso un termine più dispregiativo e dico ammaestrato, gli è stata consegnata lì. Questo appartamento era affittato a nome di Marcello Soffiati, tra l'altro coinvolto nella strage di Piazza Loggia, nelle indagini. Era sostanzialmente la sede veronese di Ordine Nuovo e lì, esattamente un anno dopo, è stata portata la bomba che poi è stata fatta esplodere in Piazza della Loggia. Sono anche queste concomitanze un po' pesanti, direi. Vuoi ribattere? No, io ti dico, tanto ormai siamo tra amici, che queste figure, ovvero questi personaggi, sono assolutamente difficilmente decifrabili, perché hanno dei percorsi che emergono dopo un evento molto significativo, molto importante, come quello di una strage. E io continuo a dire, attenzione, che le stragi sono dei mezzi di comunicazione in momenti critici, eccetera. Come dire, io posso anche manipolare o convincere una persona a fare un determinato gesto, perché gli dico: questo è il momento tuo, questo, non so, posso fare mille discorsi. E le persone che sono a contatto con questi soggetti, allora noi abbiamo l'imputato condannato per strage che si chiama Maurizio Tramonte, suo fratello è Massimo Tramonte e suo fratello era infiltrato sempre come quello nella destra nell'autonomia padovana, è stato uno degli imputati del 7 aprile. Vi posso garantire che le persone che hanno conosciuto Massimo Tramonte mai avrebbero sospettato, e ancora oggi restano totalmente increduli, sugli atti documentali che lui lavorava per conto dei servizi, cioè era un informatore regolare dei servizi di sicurezza, sempre del medesimo ufficiale che gestiva suo fratello, che poi va a mettere la bomba di Brescia. Allora, soggettivamente, noi possiamo incontrare persone che sono state protagoniste di cose per noi in qualche maniera fuori dall'ordinario, dall'immaginario, va bene, e che poi ci tirano all'interno, ci facciamo tirare noi all'interno di valutazioni su queste persone che sono basate però non su elementi concreti di fatto. Il fatto che vengano fuori le documentazioni relative agli informatori è un problema, perché i servizi hanno fatto di tutto per tutelarli, ma l'informatore di polizia che faceva il manager di Vasco Rossi, gestiva le discoteche, chi si avrebbe mai pensato che fosse un informatore? Rovelli fosse un informatore, chiunque l'abbia conosciuto, tutto poteva pensare tranne che fosse un informatore. Quindi le condizioni e le particolarità. Una cosa sulla questione della bomba a Rumor, c'è qualche cosa che non quadra. Poi Rumor è stato il nemico minacciato dei fascisti che volevano farlo fuori, va bene, cioè dopo, ripeto, sarà la storia, le considerazioni, eccetera. Però se vado per fare un attentato Rumor e Rumor va via, io la bomba non la tiro. Non ho sbagliato la macchina, cioè non ho tirato e ho preso una macchina che non c'entrava. Rumor è andato via, stavano riaprendo la questura, per cui la gente che c'era lì era quella che doveva entrare in questura, e tiro la bomba. E lì qua... Non è proprio andata così, ma in ogni caso tu, cioè la linguetta la tiri via, non è che la bomba gli dai un calcio scoppia, la bomba, quella israeliana, devi estrarre la linguetta e poi lanciarla, quindi nel momento in cui estrai la linguetta, va bene, e lanci la bomba per terra, per dove, per come, va bene, la bomba scoppia. Rumore era già andato via. Poi, vabbè, era l'attentato, si voleva significare, era un gesto per intimidatorio nei confronti di Rumore. Il problema è che ci sono stati morti in una strage. La valenza di quella strage va comparata allo svolgimento del processo di Piazza Fontana. Siccome tutti noi abbiamo fatto le manifestazioni il 12 dicembre per almeno 10 anni, dopo il 69, per ricordare che era una strage di Stato, per ricordare che gli anarchici erano innocenti, il processo si è sviluppato in maniera tale che lo stesso processo di Piazza Fontana è diventato un'ossatura politica nazionale. E quindi quando nelle congiunture di quel processo emergono sempre più pesantemente e chiaramente le responsabilità dei neofascisti, si deve dire che c'è un anarchico che lancia la bomba. Non c'è bisogno. C'è bisogno, sì, perché in quel momento tutta la stampa, quindi anche le scimmiette, come le chiamo io, cioè gli imitatori, si era instradato nei discorsi della controinformazione e che bisognava smontare le accuse nei confronti degli anarchici. E quindi questo era esattamente, perfettamente. Ti aggiungo che nel 73 tutti i fascisti del Mar, nel settembre, si sono mobilitati perché gli era stato detto che c'era un colpo di Stato. Poi seguirà il 74 e che il PC era in piena mobilitazione. Tutti i dirigenti e i funzionari del PC 73-74 avevano già individuato e sapevano di non dover dormire a casa in determinate congiunture e situazioni. Quindi in questo contesto il gesto di Gianfranco Bertoli resta, per quanto riguarda la sua persona, una questione con 10.000 punti di domanda, va bene, ma per quanto riguarda l'efficacia oggettiva di quel gesto ci sono delle evidenze che sono inconfutabili. Dopo ognuno la pensa come vuole, ovviamente. Va bene, direi che ormai l'ora... Non abbiamo esaurito niente. Dunque, su Brescia abbiamo parlato pochissimo. Se volete sapere qualcosa dovete leggere il libro. Va bene, chiudiamo qui. Grazie a tutti per l'attenzione e per la resistenza.